sincero. Spesso vesto di nero, spesso vesto di nero, perché sono un uomo sincero. Un uomo sincero. Non mi puoi dire che mi sono vestito di un colore che non fosse il nero, perché io sono un uomo sincero, un uomo.